Questa trasmissione con due pagine che di cui non vorremmo mai parlare, di quelle triste. La prima, ieri tra l'altro mi trovavo a Roma, via e scorrevano le immagini, e mi riferisco alla tragedia all'istituto professionale Morvillo Falcone di Brindisi. Indubbiamente a tutti notizia, e tutti siamo rimasti sorditi dalla notizia, ma aggiungo chi ogni giorno lavora con i giovani, quale operatore scolastico, può capire benissimo cosa significa iniziare una mattinata scolastica con una tragedia del genere. La scuola, punto d'incontro dei giovani, è stata colpita. Il cuore della scuola è addolorato di coloro i quali ci lavorano. Non si conosce ancora la matrice. Io ricordo solamente che la tragedia è avvenuta all'istituto professionale di Brindisi, un istituto professionale intitolato a Francesca Laura Morvillo Falcone. Mi fermo qui, non aggiungo altro. Mi auguro solamente che oltre alla prima vittima non ce ne siano altre. Addio alla giovane di 16 anni, addio da chi, come dicevo prima, lavora nel mondo della scuola e capisce benissimo cosa significa ogni giorno portare avanti questi ragazzi. Stamattina ci siamo svegliati in malo modo perché la notizia del terremoto in Emilia Romagna, che ha colpito le zone del Modenese e del Ferrarese alle 4 di mattina, ripeto, con un'intensità di magnitudo 6, non si conoscono ancora ovviamente tutti i dati del danno, ma sicuramente 5 o 6 vittime ci sono, e anche questo è un fatto di cui chi vi parla non vorrebbe mai parlare, ma purtroppo devo aggiungere che dal 1300 è risultato il più violento terremoto che sia avvenuto mai in Emilia e Romagna. Iniziamo, come dicevo prima, qua e là tra una novità e l'altra, di domenica 20 maggio 2012. Io mi scuso con il sindaco e con i consiglieri, ma ho dovuto tra l'altro invertire la scaletta, in quanto le notizie che ci hanno raggiunto, notizie proprio freschissime, che subito vado a leggere: Cefalù e San Raffaele, disdetta la convenzione, addio all'ospedale Giglio di Cefalù. La comunicazione è arrivata dalla nuova proprietà della fondazione, creata da Don Luigi Verzè. L'assessore regionale Massimo Russo rassicura: garantiremo la piena funzionalità dei reparti. L'ospedale Giglio di Cefalù, la nuova proprietà dell'ospedale, appunto, ha deciso di disdettare la convenzione stipulata tra la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor e la Fondazione San Raffaele di Cefalù. Lo si è appreso da un comunicato dell'assessore regionale alla salute Massimo Russo. Io qua mi fermo perché ringrazio per essere con noi, l'abbiamo invitato. Non poteva, ripeto, tra l'altro è stato sempre vicino a CRM, in modo particolare qua e là tra una novità e l'altra, tutte le volte che c'è stata la necessità. Certo, l'avrei voluto invitare il presidente dell'ospedale di Cefalù, ecco, abituiamoci a questa nuova terminologia, il dottor Stefano Cirillo. Grazie presidente per essere con noi. L'avrei voluto invitare in altra occasione, parlare con maggiore serenità, ma qua la notizia che arriva dall'oggi al domani, come così, se si stesse parlando di nulla, proprio ci ha imposto di disturbarla stamattina. Lei è qua con noi, come è qua con noi il sindaco, come sono già presenti 4 consiglieri, perché nella seconda parte di quella tra una novità e l'altra affronteremo anche ecco, il quesito che ci porremo. Il sindaco Rosario Rosario La Punzina, voluto dall'elettorato cefaludese, però si ritrova in consiglio comunale, i numeri non ci sono e vedremo che tipo di situazione si va a prospettare da qui al 24 maggio. Infatti alle ore 20 è stato convocato il consiglio comunale di Cefalù per il giovedì 24 maggio alle ore 20, mentre stasera si insede alle ore 18 il consiglio comunale del comune di Castelbuono. Presidente, mi scusi per questa promessa, ma era premessa, ma era doverosa. Ecco, io la prima domanda che le faccio, perché dobbiamo entrare subito nel cuore della situazione, questo tipo di convenzione a cosa portava in termini proprio tangibili la fondazione San Raffaele? Cosa ha portato a Cefalù, oltre ovviamente alle risorse umane, a questi tipi di scambi? La domanda è chiarissima, intanto buongiorno e grazie di avermi invitato. Devo fare un passo indietro sulla sua introduzione, nel senso che per noi non c'è nulla che toglie serenità a questo momento, nel senso che lo viviamo in assoluta tranquillità, perché era quasi un fatto atteso. Perché era un fatto atteso? Perché ormai da settembre dell'anno scorso attendevamo che questo nuovo partner che subentrava a Milano desse notizia di un interesse o meno a partecipare alla struttura di Cefalù. Fermo restando che la struttura di Cefalù negli anni, come sapete, ormai quasi 10 anni, ha maturato quell'autonomia e quell'indipendenza gestionale, sanitaria, nella ricerca e quant'altro, che mi permetto di dire oggi può sicuramente fare a meno di qualsiasi tipo di partenariato, e quindi da questo punto di vista una serenità assoluta per quella che è la continuità dei servizi che svolgiamo, per quella che è la continuità gestionale soprattutto per quella che è, e che in questi giorni è sembrato diventare il problema principale, ovviamente dal punto emotivo, per chi probabilmente non conosce bene i dettagli, per quello che è il fatto occupazionale. Bene, se il sindacato, come ha detto probabilmente indirà delle giornate di agitazione, io vorrei dire una cosa a priori, cioè, e che deve stare su tutto: è giusto che il sindacato e tutti i sindacati cerchino di tutelare il posto di lavoro di chi ovviamente è occupato all'interno dell'ospedale. Io vorrei dire una cosa in più: non solo tuteleremo il posto di lavoro, ma non tuteleremo un posto di lavoro, tuteleremo il posto di lavoro a chi lavora bene e chi ha svolto sempre con eccellenza il proprio lavoro, che è una cosa diversa che garantire e basta il lavoratore. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista occupazionale, non ci sono assolutamente problemi particolari. Per quello che riguarda la partnership di questo nuovo socio che è entrato al San Raffaele di Milano, che si è trovato una valanga di debiti sulla proprietà milanese, ha subito inviato a noi questa disdetta della convenzione dei servizi, e anche lì bisogna spiegare che cos'è questa convenzione dei servizi e a cosa subentrava il gruppo Rotelli. Il gruppo Rotelli entrava a tutte le attività sanitarie e mediche del San Raffaele di Milano, ivi inclusa la possibilità, secondo un concordato col Tribunale di Milano, la possibilità di partecipare alla sperimentazione gestionale di Cefalù. Ha subito fatto sapere che non era interessata, quindi il punto di domanda può essere: perché non è interessato il gruppo Rotelli e cosa cambia a Cefalù per questo disinteresse? Può non essere interessato, io dico, intanto perché la fondazione, come atto costitutivo, è una fondazione no profit, quindi non distribuisce utili e non dà, diciamo, quindi a chi fa impresa pura, a chi fa commerciale, probabilmente un interesse di questo tipo. Può non essere interessato, e ritengo, conoscendo anche Rotelli personalmente e chi lavora nel gruppo, che avendo da sempre concentrato tutte le attività sanitarie all'interno di una rete soltanto in Lombardia, con quasi una ventina di ospedali, può non avere interesse a uscire dalle logiche della sanità lombarda. L'altro punto, che invece è quello che ci interessa direttamente, è stabilire cosa viene a mancare con questo diniego di partecipazione da parte di Rotelli a Cefalù. Scusate anche un po' di presunzione e di arroganza, non mia, ma della struttura e di chi ci lavora dentro. Assolutamente niente. Cioè, se è vero che in questo percorso probabilmente chi ha trasferito il know-how all'inizio ha consentito uno start-up veloce e ha sviluppato quindi delle potenzialità che via via sono maturate, oggi questa struttura, dopo 10 anni, non ha più bisogno, mi pare, di essere accompagnata per mano da qualcuno, chiunque esso sia. Questa struttura non è, permettendo consentitemi di dirlo, quindi da questo punto di vista non è un'autoincensazione, perché sono i numeri che parlano chiaramente. È una struttura che produce oltre 5.200 interventi l'anno, oltre 8.000 ricoveri, quasi 250.000 prestazioni ambulatoriali. Una struttura che dal punto di vista gestionale negli ultimi tre anni ha portato in pareggio gli ultimi tre bilanci, una struttura che, scusatemi, li ho sentiti stamattina, ha in questo momento in volo da Bruxelles a Bujumbura in Burundi 5 operatori che stanno andando ad aprire un ospedale in uno dei posti più disagiati del mondo. Queste cose, signori, non si improvvisano, queste cose non vengono dettate da un partner che sta a Milano o a Kuala Lumpur, scusate la presunzione. Questi sono dei contenuti che ha sviluppato il personale che ci lavora e che in dieci anni ha avuto trasferito il know-how, e oggi con presunzione mi sento di poter dire, se qualcuno ha bisogno di aver trasferito know-how, il San Raffaele di Cefalù è disponibile a farlo. Non siamo più colonia di nessuno, non abbiamo bisogno di essere colonizzati o di avere un padrone o un partner che venga da fuori. Questo bisogna maturare in chi ci ascolta e anche in chi lavora. Presidente, mi scusi, perché abbiamo aspettato che loro ci sganciassero? Perché di questo si tratta, noi possiamo utilizzare... No, mi dispiace, non sono d'accordo con questa fase di sganciamento dall'oggi al domani. E questo processo, per quello che mi riguarda, intanto mi permetto di dire, è avvenuto sin dall'inizio. Nei primi sei mesi del mio insediamento e del Consiglio di Amministrazione, e quindi di chi è subentrato nella parte gestionale, quindi dal 2009, abbiamo provveduto a cancellare qualcosa come una sessantina di contratti di consulenza e di partecipazione con terzi, e in particolare con soggetti milanesi. Via via abbiamo sviluppato un'autonomia e quindi abbiamo fatto in house quello che prima rivolgevamo in richiesta all'esterno, e arrivo alla convenzione. Cosa è rimasto di quella convenzione iniziale che è stata sviluppata? Veramente poco, cioè pochi esami di laboratorio un po' particolari che ancora mandavamo a Milano, qualcosa per l'anatomia patologica, che tranquillamente nelle prossime settimane crediamo in parte per l'anatomia patologica di fare in house qualche cosa sulla laboratoristica che manderemo a Palermo. Quindi veramente non ci cambia nulla dal punto di vista organizzativo e gestionale dell'aspetto sanitario. Dal punto di vista poi dell'assetto della fondazione, questo è l'altro tema interessante sul quale bisogna riflettere. Un passaggio prima, nel disdire il 16 maggio questa partecipazione alla convenzione, il nuovo padrone del San Raffaele di Milano cita la necessità di fare a meno da parte della struttura di Cefalù del logo Istituto San Raffaele Giglio. Anche qui, sentiti diversi legali e diversi consulenti, si è visto che questo è stato conferito nell'atto costitutivo e non ci può essere chiesto indietro. Poi se la fondazione volesse farne a meno, perché può anche non avere interesse a mantenere il logo, questo sarà la fondazione, quindi là probabilmente ci sarà un oggetto di contenzioso, però per un fatto di continuità ovviamente lo continueremo a mantenere, e questo è il primo passaggio. Andiamo alla fondazione. La fondazione, come sapete, era stata costituita con tre partner pubblici e un partner privato. Qui c'è una fetta dei partner pubblici, che il sindaco La Punzina, intanto che ti permetto di fargli gli auguri per questo insediamento, e comunque a lui compete da oggi un ruolo importante in questa negoziazione, proprio perché è uno di questi tre partner pubblici. Il quarto partner, che era questo partner milanese che doveva trasferire il know-how su questa sperimentazione gestionale, è via via sfumato, permettetemi di dire, non è andato via il 16 maggio e così, e non è andato via lui, via via per un effetto naturale ha trasferito il know-how, e questo bisogna riconoscerlo. Siamo attenti, non buttiamo a mare ovviamente tutto quello che c'è stato anche di buono in questa storia, perché probabilmente il processo così veloce di sviluppo di un ospedale così importante non sarebbe avvenuto se non avessimo avuto comunque la partecipazione di chi aveva maturato in altri posti un know-how specifico. Quindi dopo questa fase però di start-up, via via si è defilato questa partecipazione, via via sfumata. Quindi da questo punto di vista c'è da dire, non è un taglio netto, non c'è una rescissione del cordone ombelicale così repentina e basta, è avvenuta via via negli anni, certo con una serie di equilibri che via via sono maturati all'interno della struttura, perché considerate che questi ragazzi che lavorano là da 10 anni sono stati capaci, faccio sempre un esempio che a me pesa particolarmente, perché quando sono arrivato mi sono accorto che era una nota dolente. Chi faceva prima i bilanci gestionali per il San Raffaele era un consulente esterno strapagato, oggi lo fanno i ragazzi che lavoravano lì all'interno e che hanno maturato queste competenze, lo fanno con molta dedizione, lo fanno con molta capacità professionale. Penso all'ufficio delle paghe, che anche quello veniva dato in esterno e i ragazzi hanno maturato la loro indipendenza e ora lo fanno all'interno, e così via via una serie di altri servizi che non, anche per un fatto di tempo non vi cito, però considerate che è via via cresciuta la capacità di fare in house all'interno quello che prima veniva delegato dagli altri, cioè la struttura cammina con le sue gambe, anzi permettetemi di dire corre con le sue gambe, non ha bisogno più di un supporto o di qualcuno che lo porti, ma non è più il bimbo mano manina che viene accompagnato per i primi passi. Questa struttura è cresciuta, vola tranquillamente, permettetemi di dire è sicuramente, è questo a prescindere quindi da quella che è la partecipazione di terzi, è sicuramente una delle strutture che in Sicilia esprime tra le sanità più eccellenti, e poi ha sviluppato, come abbiamo detto prima, quelle note che ci pongono ai primi posti, anche perché ora parlavamo prima di interventi complessi sull'amico consigliere che è stato portato da noi al Giglio. Sicuramente è questa la struttura che in Sicilia tratta più alta complessità chirurgica, il che significa che sicuramente è un ospedale di cui la Sicilia e i siciliani non possono e non potranno fare a meno. Allora, autonomi, possiamo andare avanti, il processo che si porta avanti dal 2003, quindi un processo, complimenti per il Burundi, perché mi permetto di dire anche noi in segno proprio di formazione e di valori nei riguardi di giovani abbiamo cercato di sensibilizzare i nostri giovani nelle nostre scuole proprio per lavorare, per dare il loro contributo anche per questo nuovo ospedale, che sicuramente è l'unico in una zona difficilissima, come le diceva prima. Bilancio, perché di fatto le professionalità vanno retribuite. Il consiglio di amministrazione, in passato c'è stata una querella con uno dei consiglieri, con l'avvocato Punzi, dove si parlava appunto di questa situazione non facile. Sì. Se lei proprio ci può parlare del bilancio, e assolutamente. Poi l'ultima domanda, la prossima domanda riguarderà la regione Sicilia, perché da questo comunicato adesso si capisce che il Giglio di Cefalù non ha assolutamente problemi, può andare avanti e la regione manterrà i suoi impegni. Una cosa alla volta, sì, perché giustamente quello è il passo cruciale, cioè cercare di chiarire un attimino quelli che sono i passaggi su questo bilancio e nei numeri. Negli anni, e quindi noi siamo arrivati nel 2009, abbiamo trovato per prima cosa un bilancio del 2008 che abbiamo ereditato con 13 milioni di perdite e ereditavamo. Poi per quello che è stato scoperto successivamente si arriva a una cifra pari quasi a 38 milioni di euro per quello che era stato gestito negli anni tra il 2003 e il 2008. Però c'è un però, non possiamo dire soltanto che c'erano perdite per 38 milioni di euro. Di questi 38 milioni di euro una buona fetta sono dovute a un contenzioso che è in atto di fatto tra l'ASP, che controllava le prestazioni rese dalla fondazione allora, e che non riconosceva appunto queste prestazioni per fatti molto spesso formali, quindi una prestazione resa non riconosciuta, e quindi chiedeva all'assessorato di non retribuire quella prestazione, e questo ha fatto maturare questi famosi 38 milioni di oggetto oggi di un contenzioso, che è stato rimandato al TAR, al Tribunale Ordinario, e che quindi dovrà chiarire se erano erano delle somme dovute o meno. E questo, però, ripeto, facciamo un attimo il punto, fa parte del passato e probabilmente in parte può essere portato a una transazione per ridurlo notevolmente, almeno a un terzo di quello che è. Dopodiché abbiamo detto, bene, dal 2009, 2010, 2011 abbiamo pianificato i nostri bilanci, abbiamo trovato un equilibrio economico-finanziario, il che ci pone a negoziare. Considerate che è stato trovato un equilibrio di bilancio in una situazione in cui sono stati fatti dei tagli ovviamente per il piano di rientro, quindi i nostri budget sono stati ulteriormente cassati di qualche cosa, e quindi questo ci rende ancora più soddisfatti del risultato, anche perché il risultato economico va anche in parallelo con quella che è stata la crescita dell'offerta sanitaria. Non è che sulla base di un raggiungimento di bilancio sono stati fatti dei tagli che hanno reso la struttura meno appetibile all'esterno, anzi comunque è cresciuta sempre l'offerta sanitaria e le prestazioni ed è cresciuto sempre quell'indice di complessità di cui parlavamo prima. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista economico, questo cosa ha portato? Ha portato più di un anno fa, e quindi una prima assemblea dei soci convocata da me a settembre, una seconda a ottobre, dove chiedevo ai soci un piano di rientro, cioè riequilibrate quindi queste passività del 2003-2008, dove c'era una disponibilità della regione e dell'ASP a ripianare il debito. Questo ripianamento non è stato fatto perché si aspettava appunto di capire che chi subentrava, se voleva subentrare, quindi anche ripianando il debito, e lì c'era anche un problema del comune di Cefalù che non poteva partecipare al ripianamento del debito. Successivamente è stata fatta un'analisi su questo e si è visto che comunque, siccome il presupposto della sperimentazione gestionale era che la regione avrebbe comunque ripianato il debito, giusto o sbagliato che sia il risultato di questi anni, la regione dovrà ripianare questo debito per consentire chiaramente un piano industriale nuovo. Io ho detto sia al Presidente della Regione sia all'Assessore, ma devo dire anche all'Onorevole Accoto in Commissione Sanità più volte, ho detto non solo la struttura ha trovato un equilibrio economico finanziario, possiamo anche intervenire sul debito pregresso facendo un piano industriale, fermo restando che una parte di questo va azzerato. Dico, quindi da questo punto di vista io sono abbastanza tranquillo e sereno, non vedo, capisco che c'è l'enfasi molto spesso di interlocutori che conoscono soltanto una fettina dell'argomento e quindi che utilizzano strumentalmente pochi argomenti, però purtroppo noi siamo attenti anche a evitare la disinformazione, perché quella che poi fa leva sull'emotività soprattutto dei dipendenti, che è la parte che ovviamente a me sta più a cuore. Ecco, prima di rispondere all'ultima domanda che io già le ho anticipato, gradirei anche un intervento del sindaco. Permettetemi di ringraziare Vincenzo Lombardo per la sua disponibilità. Quando l'abbiamo contattato, ripeto, non era in scaletta l'argomento, però abbiamo ricevuto subito telefonate per determinati chiarimenti, e che poi questi chiarimenti arrivano dalla voce autorevole del Presidente e noi siamo tranquillissimi. Signor sindaco, buongiorno. Buongiorno. Ecco, l'ospedale di Cefalù, permettimi subito col pensiero di raggiungere una persona a noi tutti cara, uno di noi per così dire, che è Daniele Tumminello, il quale Daniele Tumminello domenica scorsa, grazie all'ospedale di Cefalù, proprio una situazione difficilissima, adesso è una situazione in itinere che non può fare altro che migliorare da giorno in giorno, da settimana a settimana, da mese in mese. Ciao Daniele, sei uno di noi. Come consigliere manchi qua a questa trasmissione, ma sono convintissimo che in una prossima avrò modo di intervistarti. Signor Sindaco. Grazie Pino, io saluto i presenti, il Presidente, i consiglieri comunali e chi ci ascolta. Il pensiero a Daniele, saluto anch'io Daniele, Daniele sta meglio, speriamo al più presto possa riprendere la sua attività di docente e poi raggiungerci al comune. Intervengo su un argomento particolare, che è quello dell'ospedale, che mi trovo ad affrontare da sindaco in questi giorni, anche con particolare preoccupazione rispetto a quelle che sono, per assicurare i servizi e assicurare diciamo una continuità di questi servizi e parlare anche di futuro. Io distinguerei la vicenda giuridica con le prospettive dell'ospedale, perché quello che diceva il Presidente è vero, noi ci aspettavamo da un momento all'altro la decisione da parte della nuova società che ha formato una SRL che si chiama Ospedale San Raffaele SRL, un po' con l'operazione che ha fatto l'Alitalia, lasciando tutti quei rami secchi alla società, al Monte Tabor, dove ci sono dei liquidatori che si stanno occupando di tutti quegli ospedali non produttivi o almeno che non transitano nella nuova società. Purtroppo l'ospedale di Cefalù non rientra tra quelli che avranno la collaborazione con l'ospedale San Raffaele SRL. Forse, io mi spingo a dire, per precisa responsabilità di carattere politico, perché in questi anni questa controversia che ha avuto l'ospedale, la fondazione San Raffaele Giglio con la regione, poteva anche trovare soluzione anziché arrivare oggi a questa scelta, che sono convinto che è una scelta di carattere economico fatta dall'ospedale San Raffaele e dalla società che ha acquisito il Monte Tabor. Per cui dobbiamo prendere atto che disdicono una convenzione, la disdetta di una convenzione di servizi. Il Presidente ricordava anatomia patologica, analisi, penso che ci sia anche qualche medico, qualche professionista che ha il contratto, ma tutto questo non può scaricarsi su quella che è poi la continuità del servizio. Tutto questo dovrà farci attrezzare per trovare una soluzione, e evidentemente la soluzione passa anche attraverso scelte, specialmente attraverso le scelte, e queste scelte devono essere fatte d'accordo con la politica, per cui con il Presidente della Regione, con l'assessore alla sanità. E io domani mattina chiederò, prima di tutto convocherò anche gli altri sindaci del territorio per poi chiedere la convocazione presso la Commissione Sanità dell'assessore regionale della sanità, proprio per comprendere dalla regione anche quali sono le iniziative da intraprendere, quali sono anche le scelte che la stessa regione vuole fare. Devo dire anche che sono preoccupato più che altro di quello che può accadere all'interno del Consiglio di amministrazione, perché sappiamo tutti che il Consiglio di amministrazione è composto dal rappresentante del Comune, dal rappresentante della Regione e dal Presidente della Fondazione e poi da due componenti del Monte Tabor. Allora qui la preoccupazione è: cosa faranno questi due componenti del Monte Tabor? Parteciperanno al Consiglio di amministrazione oppure no? Perché è questo il tema principale. Per cui, se ci sarà la possibilità di una continuità del Consiglio di amministrazione, può anche darsi che quasi sicuramente, al di là del marchio e tutto il resto, le scelte potranno essere anche più rapide e sicuramente troveremo soluzione per quello che è il futuro, la prospettiva del futuro, che è quello che più mi interessa, perché, ripeto, quello che c'è stato ormai, insomma, è sotto gli occhi di tutti. E se invece i due rappresentanti del Monte Tabor che fanno parte del Consiglio di amministrazione non parteciperanno al Consiglio di amministrazione, allora la vicenda diventa particolare. È evidente che il Comune di Cefalù e il Sindaco di Cefalù è molto attento, sta seguendo tutta la vicenda e si occuperà, nonostante in questo momento si trova da solo, perché proprio in questi giorni avremo prima il Consiglio Comunale e poi io nominerò subito dopo la Giunta, ma segue attentamente questa vicenda dell'ospedale, che è a mio giudizio una delle cose più importanti. Sì, ecco, se lei, Presidente, può rispondere brevissimamente sia sì. a questo e sia alla domanda di prima. Per un passaggio del sindaco interessantissimo è quello di come ci porremo nei confronti di chi poi alla fine ci traduce delle scelte valide per l'ospedale. E io su questo sarei molto determinato. Signori, noi non ci dobbiamo aspettare che lì qualcuno scelga per noi, no. Dobbiamo forzare da questo punto di vista per spiegare all'interlocutore politico quello che è successo e cosa abbiamo maturato, quindi chiedendo tranquillamente di poter continuare a operare così come è stato fatto, senza nessuna forzatura, senza che per forza si debba cercare una soluzione esterna che non è detto che aggiunga niente a quello che già abbiamo. Quindi da questo punto di vista sarei molto determinato, già l'ho fatto, diciamo, nelle sedi adatte a questo, a segnalare la assoluta mancanza di necessità di scegliere in fretta un eventuale partner, che sia scientifico, che sia di tipo economico-finanziario. Non c'è questa necessità di correre, la struttura, ripeto, continua a camminare tranquillamente. Se qualcuno si dovrà aggiungere in futuro, e permettetemi, sono state delle proposte già che sono venute veramente da tantissime parti, però dobbiamo scegliere qualcuno all'altezza di quello che oggi è Cefalù. Non permettiamo a nessuno di utilizzare questa storia, questo momento probabilmente anche un pochettino complesso per inserirsi in qualche cosa che appartiene a Cefalù, alla Sicilia, ai siciliani e a chi lavora in ospedale. Ecco, lei già ha risposto, io proprio mi avvio alla conclusione. Se lei ci può ancora una volta rafforzare questa assicurazione che ha detto prima, perché poc'anzi si parlava anche di riunione sindacale, sì, eccetera. Se lei anche può riprendere questo suo passaggio. Questo passaggio è con piacere. Allora, è semplicissimo. Dal punto di vista occupazionale non fa una piega, dal punto di vista societario, se una società, in questo caso una fondazione di tipo privato con una partecipazione pubblica, perde uno dei partner, continua dal punto di vista giuridico la sua essenza, quindi non cambia niente. Poi se appunto l'interlocutore e quindi il pubblico decide di inserire un altro partner o di avvalersi di altre collaborazioni che possono essere anche dei partenariati soltanto di tipo scientifico, ma quello lo possiamo valutare con piacere. Presidente, io la ringrazio per questa sua presenza, per questa sua partecipazione. Avremo modo di continuare in questo confronto, di confrontarci dialetticamente per quanto riguarda questa situazione. Prego. Posso aggiungere 30 secondi? Un saluto alle famiglie di Rosario Squadrito, di Simona Menta, di Vincenzo Cefalù, di D'Alessandria e della dottoressa Restivo, che appunto sono in volo in questo momento per il Burundi. Quindi un saluto alle famiglie che hanno consentito a loro di fare questa esperienza. Grazie veramente per la partecipazione. Noi salutiamo loro, salutiamo tutti i pazienti dell'ospedale di Cefalù e tutti gli operatori, perché indubbiamente l'ospedale di Cefalù, una cosa è certa, è una realtà non solo panoramica come si voleva una volta, ma soprattutto efficiente, efficace, non dico economica, caro Presidente, perché a volte pagare è sorridere, ma la salute non ha prezzi e non ha costi. Grazie Presidente, grazie, buona voi, giornata, grazie la lascio alla sua domenica. E col nuovo regista che stamattina mi sono trovato, ciao Santi Genovese, sei senza capelli, e allora passo subito la linea in regia per un breve stacco, grazie. Pubblicità. Il modo migliore per rendere felice una donna è regalarle un gioiello, un valore eterno, adatto a sigillare unioni profonde e inossidabili. Da Mineo Gioielli, le più preziose idee regalo proposte con professionalità ed eleganza, perché un gioiello è testimone di momenti memorabili. Mineo Gioielli, la preziosa artigianalità e l'eleganza di collezioni esclusive che fondono il freddo dei gioielli con il calore di sentimenti irripetibili. Mineo Gioielli, via Flavio Gioia 3, telefono 091 962 313 a Bagheria. Una tradizione che si trasmette nel tempo. Un ambiente di grande fascino e ricco di atmosfera, dove gustare la genuinità di sapori raffinati e prelibati. Ristorante Pizzeria Kenzia, al Trappito da Nicola. Per una cena indimenticabile con piatti particolari, decorati con estro e fantasia. Per la pizza con gli amici, gustosa e ricca di ingredienti di qualità. Ristorante Pizzeria Kenzia, al Trappito, con suggestiva terrazza sul mare, per i buon gustai che pretendono il meglio. Nel centro storico di Cefalù, in via Bordonaro 96. Per prenotazioni e info, 0921 42 38 01. La forza di un team vincente. L'amore per le piante a Cefalù è Hobby Garden. Piante ornamentali, piante da frutto e da orto, attrezzature agricole, hobbistica per giardinaggio, giochi d'acqua e accessori, programmatori e raccorderia per irrigazione, terrici universali, sementi per tappeti erbosi. Hobby Garden di Cova Salvatore. L'amore per le piante. Via Montessori, Cortile 3, Contrada Pacenzia. Telefono 0921 92 17 51 a Cefalù. Hobby Garden vi ricorda i vivai Cova a Campo Felice di Roccella. Manutenzione di parchi, giardini, residence, prati. Contrada Pista Vecchia, strada statale 113, Campo Felice di Roccella. Telefono 0921 428 927. Vivai Cova, di Fabio Cova. La convenienza di acquistare da chi produce. Arredamenti curati e confortevoli, studiati in ogni dettaglio. Dal prodotto concepito per le esigenze di tutti a quello più esclusivo per soddisfare bisogni e desideri di ognuno. Arredi Madonia, mobili classici e moderni. Un vasto showroom con esposizione di 25 modelli cucine Lube, dove potrete toccare con mano la qualità di cucine innovative che propongono soluzioni per ogni tipo di spazio e per ogni esigenza. Madonia Vincenzo e Figlio, una grande realtà sempre legata al territorio, che propone mobili fatti di materiali importanti e resistenti, sinonimo di qualità e al miglior prezzo. Arredi Madonia Vincenzo e Figlio, quello del Ghirigoro Dono. Mettiamo al servizio dei nostri clienti oltre 40 anni di esperienza e ricerca. Piazza San Leonardo 7 a Castelbuono. Telefono 0921 67 67 31. A Cefalù, al numero 66 di via Mandralisca, Caffè 66, food, drink e... Nel centro storico di Cefalù, vicino al Duomo, un locale per tutti. Atmosfera calda, accogliente e amichevole. Pub Caffè 66, food, drink, creperia, panineria, bruschetteria, wine bar, birreria, insalate e piatti tipici. Lo trovate anche in internet su www.caffè66.altervista.org. Caffè 66, al numero 66 di via Mandralisca, di fronte il museo. Mangiare sano ti aiuta ad affrontare meglio lo stress della vita quotidiana. Rivolgiti con fiducia alla macelleria Arcangelo Cipriano. Sulla tua tavola carni fresche, genuine e certificate provenienti da allevamenti locali. Vitello, agnello, carni bianche, capretti e polli. E se non hai tempo, macelleria Arcangelo Cipriano ti viene in aiuto proponendoti tanti preparati di vario genere. Macelleria Arcangelo Cipriano, via Umberto I 52 a Cefalù. Telefono 0921 42 10 99. Per la tua pubblicità, CRM 0921 42 3456. Qua e là tra una novità e l'altra, seconda parte domenica 20 maggio 2012, la seconda parte della trasmissione, devo dire in audio e in video, che verrà tra l'altro replicata domani con inizio alle ore 13:15 circa, prevede l'intervista al sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, e ai consiglieri presenti. Qualcheduno ha fatto sapere che era impossibilitato a raggiungere. Ringraziamo Patrizia Messina, unica donna in consiglio comunale Grande Sud, Giovanni Uppa, Urbe, Nicolò Pizzillo, Partito Democratico. Partito Democratico e Antonio Franco, Partito Democratico. E allora subito ricordiamo che intanto questa sera, domenica appunto 20 maggio 2012, dalle ore 18 in poi, CRM e per radio effettuerà la diretta web del Consiglio Comunale di Castelbuono, quindi può essere seguita la diretta via web. Ricordiamo i punti all'ordine del giorno: insediamento del Consiglio e giuramento dei consiglieri neoeletti, nomina scrutatore, esame e sussistenza cause di incandidabilità, eventuale surroga dei consiglieri neoeletti, elezione del Presidente del Consiglio, elezione del Vicepresidente del Consiglio, giuramento del Sindaco, comunicazione, composizione, giunta. Questo riguarda Castelbuono, quindi diretta web TV stasera a partire dalle ore 18 su www.crmepiradio.it. Veniamo a Cefalù. Il Consiglio è stato convocato dal presidente uscente, professore Giuseppe Barracato, per giovedì 24 maggio. Questi punti all'ordine del giorno: insediamento del Consiglio Comunale, esame delle condizioni di eleggibilità, esame delle eventuali situazioni di incompatibilità, giuramento del Sindaco, elezione del Presidente del Consiglio Comunale, speriamo, elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale, speriamo. Non vi ho invitati, lo dico subito, per fare un'analisi del voto, perché ormai è semplicissima l'analisi. Sindaco, l'elettorato ha voluto il sindaco di sinistra, che poi ormai è il sindaco di tutti, quindi io non penso che ci sia di sinistra, centro, centrocampo, ma queste sono delle cose che andremo a vivere prossimamente. E consiglieri di destra, io ricordo la composizione e la distribuzione dei seggi. Le liste che appoggiano Saro Lapunzina, 7 consiglieri, Svolta Democratica con una percentuale di 17,0.1, 4 consiglieri, PD Partito Democratico, scusate, 16,24. Poi abbiamo Grande Sud, Leale per il Sud, il Popolo delle Libertà, Urbe Città Nuove, che ha totalizzato in tutto 9 consiglieri, Vittorio Sgarbi, Cefalù Cambia, Sgarbi Sindaco, Partito della Rivoluzione, 3 consiglieri, Onestà e Tradizione, la lista che appoggiava Giuseppe Guercio, un consigliere, nessun consigliere per Mauro Calleò e per Rosa Maria Anna Testa. Questa è la composizione. Iniziamo dal sindaco. Sindaco, brevissimamente, dal momento in cui è ritornato in municipio, da sindaco ci risulta che ha dovuto fronteggiare delle situazioni non facili, si sapevano, però subito si aspettava magari che ci fosse un momento per poter riflettere. E allora la persona sapeva di queste situazioni, come io ho avuto modo di dirle in altre occasioni, ma lo sapeva seduto dall'altra parte, ora è seduto dalla parte di chi amministra, voluto, ripeto, dall'elettorato cefaludese, per cui brevissimamente ci può tratteggiare proprio le emergenze, perché di questo si tratta, che ha dovuto affrontare in questi pochissimi giorni dal suo insediamento? Ti ringrazio della domanda. Prima di tutto lasciami dire che io sono stato eletto con più di 3.000 voti. Dire che sono il sindaco di sinistra mi sembra che sia un po' superficiale. Sono stato, io ho avuto 4 liste, 2 hanno raggiunto il 5%, le altre 2 no, sensibilità diverse all'interno della lista Svolta Democratica, poi il Partito Democratico e poi UDC ed MPA. Sono un sindaco che è stato votato da tantissimi cittadini, ripeto, oltre 3.000 voti, e sarò il sindaco di tutta la città, ed è per questo che io oggi mi rivolgo non soltanto ai consiglieri comunali che sono presenti, ma a tutte le forze politiche, perché il momento che il comune di Cefalù sta passando è un momento particolare. Tu mi parlavi di emergenze, io penso che il comune si trova in uno stato di emergenza continuo, perché per tantissimi motivi ha lasciato e ha abbandonato proprio quelle che sono situazioni che ormai sono incancrenite. Ti dico soltanto che nella posta di ieri, la posta di venerdì che poi ho guardato ieri, ci sono 4 atti di pignoramento, per cui soltanto nella posta di ieri, alcuni dei quali sono, diciamo, di una certa entità. Però non vorrei deprimere chi ci ascolta, vorrei dire soltanto che la prima emergenza riguarda l'aspetto economico e finanziario, che poi ha riflessi su tutto, ha riflessi sul servizio della potabilizzazione, su quella che dei servizio della raccolta dei rifiuti, e sulla stessa gestione complessiva del comune. Cioè il comune, se deve assicurare dei servizi come la pulizia della spiaggia, come l'apertura dei bagni pubblici, ha bisogno di risorse. Sto parlando anche di cose, se deve assicurare la pulizia delle scarpate, tutta una serie di portare anche, diciamo, a lustro questa nostra cittadina abbandonata, ha bisogno di risorse. In questo momento il comune di Cefalù è in una situazione di ingessatura totale, perché ha 2 rendiconti 2008 e 2009 da riapprovare o riesaminare, altri 2 rendiconti 2010 e 2011 che vanno approvati al Consiglio Comunale, e poi deve mettersi in linea con quella che è un'ispezione che si è conclusa e stiamo aspettando le contestazioni, per cui deve ripartire da un punto di vista, diciamo, della gestione economica e finanziaria. Questa è l'emergenza principale. Però ecco, questa emergenza ha riflessi su tutta la gestione del comune, per cui io in questi giorni mi sto occupando di avviare una serie di procedure che già sono partite, per cui la vendita dei beni rispetto all'ultimo piano di azione approvato dal Consiglio Comunale, per cui velocizzare questo processo, la quella che è la riscossione dei residui, tutti i residui attivi, per cui cercare di pressare anche per fare presto, per riscuotere i residui attivi. Poi quella principalmente di motivare il personale, perché il personale del comune di Cefalù è fortemente scoraggiato, almeno lo era fino a questo momento, motivare il personale perché il comune deve credere nelle sue potenzialità, la città ha dato fiducia e speranza nel sindaco Lapunzile, per cui il sindaco Lapunzile dovrà dimostrare, lo sta facendo tutti i giorni, senza risparmiarsi, cercando di dare il massimo, perché questa città merita riprendere, diciamo, e cercare di avere un momento diverso da quello che questo. Certo non sarà facile, però evidentemente noi dialogheremo anche con i nostri creditori, io l'ho già cominciato a fare, prenderemo anche in esame quelli che sono i debiti fuori bilancio, che già sono i debiti fuori bilancio provenienti da sentenze o da arbitrali, e partendo da questi cercheremo, con un dialogo con chi deve avere parecchi soldi al comune di Cefalù, cercare di far capire loro che il comune di Cefalù è il comune anche di questi creditori, per cui se dobbiamo salvare il comune di Cefalù da un dissesto finanziario che porterebbe sicuramente un danno all'immagine della città incredibile, lo dobbiamo fare tutti insieme, col concorso di tutti. Ecco, io in questi giorni sono impegnato ad evitare che il comune di Cefalù vada in dissesto finanziario. Ce la metterò tutta, ci vuole il contributo determinante del Consiglio Comunale, bisogna fare presto, bisogna correre, perché per fare ripartire la questione economica finanziaria dobbiamo riapprovare alcuni documenti importanti in Consiglio Comunale, bisogna fare presto perché bisogna approvare un nuovo piano di relazione dei beni, e tutto questo può essere fatto se al più presto possibile troviamo un assetto. Da questo punto di vista io sono impegnato e sto facendo, come tu hai ricordato poco fa, noi non abbiamo maggioranza in Consiglio Comunale, sono impegnato in alcune trattative con per cui alcuni incontri con forze politiche. Io mi rivolgo a tutte le forze politiche senza nessuna difficoltà, perché Cefalù vive un momento particolare, un momento che sotto gli occhi di tutti c'è un'emergenza, che è l'emergenza di come dicevo prima, evitare che questo comune vada in default. Sindaco, io la ringrazio intanto per quello che lei ha detto. Sicuramente insognatori come il sottoscritto, io accetto anche quello che lei ha detto all'inizio, perché così deve essere. Lei è il sindaco di tutti, guai se si vedesse. Però abbiamo esperienze di consigli comunali dove ci si è contati, e noi questa conta intanto la dobbiamo cominciare a fare. Io inizierei da Grande Sud, da Patrizia Messina. Patrizia, ti chiedo subito se ci sono state delle riunioni, se la tragicità della situazione cefalutana, perché di questo si tratta sotto qualunque punto di vista. Abbiamo parlato di emergenze, ma almeno noi dovremmo parlare di rilancio della città di Cefalù, quindi si dovrà lavorare su due fonti, su due fronti. Patrizia, di cosa se avete fatto delle riunioni, se avete una linea da seguire, se sicuramente ci saranno altre riunioni da qui a giovedì, per cui tutto è in addivenire in questo momento. Però avete nove consiglieri? No, Grande Sud. No. Dico le liste che sostenevano Edoardo Croce. Quindi qua ecco, se tu intanto complimenti, buon lavoro, e questo vale per tutti, perché c'è veramente da lavorare, nessuno si può tirare indietro, assolutamente. Noi siamo stanchi di aver visto persone squallide, mi dispiace utilizzare questo termine, che in determinati momenti in consiglio comunale o hanno agito da saltimbanchi o non hanno mai voluto capire assolutamente, assumendosi la propria responsabilità, dicendo sì, dicendo no, ma almeno la presenza, l'intervento e cercare di indirizzare l'amministrazione. Guercio non ha avuto la maggioranza in consiglio, io direi da quasi subito, sicuramente avete discusso, se ci puoi anticipare qualche cosa nelle linee generali, perché capisco che è tutto. Grazie Patrizia. Allora, intanto una buona giornata a tutti i radioascoltatori. Mi chiedi la posizione di Grande Sud all'interno del Consiglio Comunale. Intanto abbiamo 4 consiglieri, un grande successo per un partito nuovo che ha affrontato per la prima volta le elezioni amministrative. Facciamo parte di una coalizione che sicuramente ha perso le elezioni, la candidatura del nostro sindaco Croci. Quale ruolo all'interno del Consiglio Comunale? Allora, intanto mi sembra, abbiamo fatto delle riunioni chiaramente, ci stiamo riunendo anche con gli altri membri della coalizione Croci, quindi le riunioni sono in corso, stiamo parlando, stiamo dialogando. La posizione di Grande Sud, io sono una componente, il consigliere donna all'interno del Consiglio Comunale, credo che sia quella di una naturale posizione all'interno di un consiglio comunale, di una coalizione che starà all'opposizione che è in un ruolo penso sempre nell'interesse della che costruirà nell'interesse della città, che valuterà l'interesse è di volta in volta quello che è chiaramente sarà valutato all'interno del Consiglio Comunale, ma il ruolo è quello naturale, il naturale di una coalizione che ha perso e che quindi starà all'opposizione democraticamente, in un'opposizione che io forse ultimamente, scusate un po' la voce, ultimamente negli ultimi anni ha avuto un'accezione negativa, che non ritengo debba avere. Opporsi democraticamente significa proporre percorsi probabilmente alternativi, proporre idee, costruire comunque all'interno del Consiglio Comunale, nell'interesse, nel bene della città, quello che si riterrà più utile. Questo ritengo di poter dire, non sono il coordinatore cittadino, comunque il ruolo nostro, il ruolo naturale è quello, che ci pone in opposizione chiaramente all'altra coalizione. Chiaro, Patrizia, chiarissimo. Io adesso mi rivolgo ai due consiglieri, Antonio Franco che continua, Nicolò Pizzillo. Ecco, tu sei nuovissimo, lavato con perlana. Nuentri. Anche Giovanni. Giovanni, ora ci arriviamo a Giovanni, perché Giovanni è urbe, quindi, caro sindaco, perché quasi deve arrivare a 11, se no, vabbè. Allora, i due consiglieri, avete sostenuto, devo dire, alla grande, perché i voti, il sindaco eletto abbiamo 40 più di 40 punti percentuali per questa elezione di Saro Lapunzian al sindaco. Adesso sicuramente vi saranno richiesti ulteriori sacrifici, perché se vogliamo già iniziare a scoprire le carte e se si vuole, secondo me, la maggioranza in consiglio, tantomeno migliorare i numeri in consiglio, si deve fare qualche passo indietro su qualche cosa e assegnare a qualcheduno qualche posto di responsabilità, mettiamola così. Chi interviene per primo? Antonio Franco, per anzianità. Grazie per l'incoraggiamento sull'età. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, grazie a CRM per lo spazio che ci offre, grazie al professore Pino Simplicio. Io anzitutto devo confessare la mia particolare condizione di emozione, perché dopo 15 anni di opposizione visibile e intransigente in questa città, Bossi avrebbe detto dura. Andiamo avanti. Ora non so come è situata. Andiamo morbida avanti. Sui problemi dei cittadini e dura sulle amministrazioni che si sono succedute. E credo che il momento sia molto particolare, perché si vive l'entusiasmo, l'euforia di una vittoria che credo abbiamo meritato in pieno, con la persona che ha fatto sintesi di questo percorso di 15 anni, che è Rosario Lapunzina, che ha pienamente convinto i cittadini a votarlo, perché il suo consenso credo che sia stato sotto gli occhi di tutti. Questi sono stati 15 anni sicuramente, come dicevo prima, di intransigenza e di lotta, in cui le forze politiche che hanno costituito il centro-sinistra, prima come Partito Popolare e poi come primo Partito Popolare, il PDS, poi IDS, la Margherita, anche con una difficoltà continua anche di confronti, di crescita insieme, però sempre in un travaglio che poi ha portato a dei momenti di sintesi, dei momenti anche di distinzione, alla fine però ha portato anche a questo straordinario risultato, in cui io credo che sia il dato più evidente la vittoria del Partito Democratico. Il Partito Democratico ha avuto un'affermazione che meglio non si poteva sperare, quasi 1300 voti di preferenza sulla lista, ha portato in Consiglio Comunale 4 consiglieri comunali, uno uscente e rientrante sottoscritto con un consenso aumentato, e quindi ringrazio i cittadini perché evidentemente hanno colto il senso della mia presenza in Consiglio Comunale, 3 giovanissimi consiglieri comunali che sono una grande speranza non solo per noi ma per la politica della nostra città, per la loro limpidezza, per la loro coerenza, per la loro progettualità. Il saluto ovviamente a Daniele, che credo sia il saluto di tutti noi, di pronta guarigione. Credo che sia questa l'indicazione anche che ci spinge ad essere come questi giovani e come anche i molti giovani che si Antonio, sono succeduti. Antonio, scusami, siccome hai parlato di partiti, di PD, sì. Il Partito Democratico e Svolta Democratica sono due partiti che hanno seguito passo passo il candidato a sindaco, certo. Rosario Lapunzina. Gli altri due partiti, UDC ed MPA, la domanda è ancora va oltre, perché sì. Sappiamo tutti che si ha in questo momento una visione dei partiti piuttosto complicata. Un pochino, diciamo, tu hai critica, detto piuttosto fortemente critica. Ecco, secondo te, dalla tua esperienza, pensi che questo si sia verificato anche nella realtà cefaludese, che proprio MPA dell'UDC conosciamo le vicende che ci sono state, eccetera, ma sempre partito ufficiale si è presentato, e l'MPA, un altro partito che in questo momento tra l'altro è il partito di governo regionale, quindi con ecco, tu che tipo di analisi hai fatto? Io sono sempre molto sincero, le due liste che hanno accompagnato il progetto che ha incarnato la candidatura a sindaco di Stavola Punzina, le due liste relative a quello appunto che dicevi tu, cioè l'UDC e l'MPA, sono state formate negli ultimi giorni precedenti la campagna elettorale. Naturalmente questo ha fatto sentire il proprio peso. C'erano delle persone che certamente erano un elemento trainante all'interno di queste liste e hanno sicuramente fatto il loro dovere fino in pieno. Le liste non hanno raggiunto il 5%, naturalmente c'è delusione, in particolar modo per l'UDC, perché lo ha proprio sfiorato questo risultato, dopo un travaglio molto molto complicato di questo partito in questa città, che addirittura lo vedeva con numerose separazioni, numerose difficoltà interne, per l'MPA insomma si è trattato di una lista fatta negli ultimi giorni in cui si è voluto lanciare anche un segnale di coerenza, perché io credo che i partiti siano un elemento importante nella nostra vita civile e non vanno criminalizzati, semmai vanno individuate le responsabilità delle persone e vanno appunto legate a quelle responsabilità le critiche che si fanno. L'MPA è un partito della nostra realtà regionale e nazionale, ha voluto sostenere come candidato a sindaco Sara Lapunzia e l'ha fatto con quel poco che ha potuto portare, però anche quello credo che sia stato un contributo. Dicevo invece del metodo, quello che mi interessa è guardare avanti. Il metodo secondo me che possiamo cogliere è quello di questo dato secondo me importantissimo che è venuto fuori da queste elezioni, che sono è la presenza di tanti giovani, e questa volta di tanti giovani che sono stati protagonisti e una volta tanto non solo protagonisti e poi trattati con la pacca sulle spalle per dire bravo, però tu non ci vai in consiglio comunale. Questa volta ci troviamo in consiglio comunale con numerosi giovani di valore. Quindi io credo che il metodo debba essere quello loro, quello che ci insegnano loro, cioè quello della intransigenza sui principi, sui valori, sugli ideali, su quelli che sono i punti caratterizzanti del fare politica attivamente, e del dialogo sulle cose da fare, sulle proposte, sulle progettualità, perché credo che questo si aspettino da parte di noi che siamo, io almeno mi vanto di essere un poco più grande, ecco, e di avere qualche esperienza in più dal punto di vista politico. È un momento, come dicevo, di grande entusiasmo, ma è un entusiasmo da contenere all'interno delle cose da fare. Il sindaco poco fa diceva, devo dire che ancora non mi sono molto abituato a chiamarlo sindaco, perché guarda che deve parlare anche il tuo collega, infatti finisco subito, e credo che le cose da fare importantissime sono state già indicate dal sindaco, sono le cose fondamentali, e in più c'è da far lavorare bene il consiglio comunale. Noi abbiamo un consiglio comunale che nasce nella speranza, nell'attesa di tanti cittadini, è un consiglio comunale certamente complesso nella sua articolazione, della sua fisionomia. La sfida è proprio quella che lavori con il rispetto reciproco, ma anche con la forza necessaria ad affrontare i problemi di questa città. Ecco, passiamo al tuo collega Nicolò Pizzillo, sempre Partito Democratico. Nicolò, ecco, tu come ti stai preparando a questa seduta del 24 maggio? Sicuramente il sindaco avrà parlato anche con voi, continuerà a parlare, perché ripeto, qua io penso che i sacrifici andranno fatti su tutti. Poi io parlerò nuovamente al sindaco, perché secondo me ci sono partiti come Grande Sud, ci abbiamo sentito e ascoltato una prima dichiarazione ad oggi, noi il nostro ruolo è questo. Io non penso se il nostro sindaco ha parlato con il Popolo della Libertà, o se forse è meglio che non ci parla, non lo so, questo ce lo dirà lui, per carità. Poi ci sono le ali per Cefalù, Urbe Città Nuova, Cefalù Cambia, Partito della Rivoluzione, qua abbiamo un altro rappresentante, Onestà e Tradizione, Urbe, abbiamo Urbe e Città Nuova, quindi... Ora, il sindaco sicuramente avrà parlato con tutti, però poi ci darà lo zoccolo duro proprio dove l'ha trovato, quello morbido magari dove lo comincia a trovare. Io prego. Do un buongiorno ai radioascoltatori e ringrazio CRM per l'invito. Dico, battute a parte, dico il sindaco ha anche l'imbarazzo della scelta, quindi... Nicolò, io sono abituato sempre a guardare con le battute si dicono le cose no, più nel senso che io sono abituato, chiamiamole tutte battute, sono abituato a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Comunque dico, a parte gli scherzi, io partirei anche da una valutazione, dico, collegandomi a quello che diceva Patrizia. Dico, loro è vero, tecnicamente magari hanno perso le elezioni, noi le abbiamo vinte, io quindi faccio parte della coalizione che ha vinto. È vero, non abbiamo i numeri in consiglio comunale, nel senso abbiamo solo 7 consiglieri su 30. Questo è dettato anche dal fatto che, a mio avviso, c'è una legge elettorale particolare, nel senso che secondo me è da rivedere perché ha parecchi buchi. Nicolò, legge elettorale che ci ha permesso di eleggere il sindaco. Sì, però se lei fa finire il ragionamento, sì, io le completo il discorso. Per esempio, la legge elettorale a Palermo prevede che il premio di maggioranza vada sul risultato del sindaco, nei comuni sotto i 15.000 abitanti prevede che il risultato del premio di maggioranza vada sulle liste. Quindi comunque c'è qualcosa anche da rivedere, a mio avviso. Detto questo, dico che comunque era semplicemente una premessa. Io credo che il compito importante che abbiamo, e sono contento anche di farlo da new entry, diciamo, di questo consiglio comunale, è quello di trovare la massima sintesi possibile, perché diciamo, la città è in una situazione dove davvero bisogna fare in fretta. E io questo faccio un appello ai miei colleghi consiglieri. Noi questo consiglio comunale ha la possibilità di passare alla storia per essere il consiglio comunale che, attraverso una sintesi completa di progettualità, di programmi, di proposte, riesca a fare risollevare Cefalù. Per questo è ovvio che ci vuole l'impegno di tutti. Dico, è inevitabile parlare di coalizioni o di... qua c'è bisogno rimboccarsi tutti le maniche, lavorare sulle singole questioni. Io credo che sono convinto che noi saremo in grado, come maggioranza, di portare in consiglio comunale delle proposte alle quali non si potrà dire di no. Io forse sarò tra il presuntuoso e il sognatore, però credo che noi abbiamo vinto le elezioni per questo. Cioè, abbiamo vinto le elezioni perché siamo stati credibili, perché abbiamo presentato delle proposte concrete, perché abbiamo parlato col cuore alla gente, e la gente questo l'ha apprezzato, e parleremo con lo stesso entusiasmo, col cuore, al consiglio comunale, riproporremo le stesse proposte concrete in consiglio comunale. Sono convinto che si troverà una sintesi. È ovvio che deve essere fatto in fretta questo, perché la prima seduta è giorno 24, bisogna essere rapidi nei tempi. C'è una roadmap che si sta seguendo sulle consultazioni, ovviamente, che valuta tutti gli scenari possibili. Dico, credo davvero che creare anche allarmismi sia sbagliato. Io in questo faccio anche un appello agli organi di informazione. Dico, siamo davvero in un momento storico per la nostra città, è responsabilità di tutti fare anche un'informazione corretta, evitare di lanciare falsi proclami su spaccature, incontri o cedere, dare qualcosa in cambio, perché c'è veramente in gioco il bene di tutti. Sono convinto che se tutti insieme, politica e forze sociali, riusciamo a affrontare questo periodo con grande responsabilità e correttezza, io penso che la città possa avere 5 anni di stabilità e di cose positive per tutti. Nicolò, noi ce l'auguriamo più di te, perché non è che viviamo a Domodossola, viviamo a Cefalù e da qualche anno in più di te. Aspettiamo giorno 24, ora ascolteremo pure il sindaco. Sulla legge elettorale io mi permetto di dire questo: intanto, per quanto sbagliata sia, ci ha permesso e ha permesso agli elettori di scegliere un candidato in consiglio comunale e un candidato a sindaco. Quindi questo voto disgiunto è stato un segnale ben preciso, perché indubbiamente i voti che hanno avuto i consiglieri e le liste poi sono state, diciamo, nel loro insieme diverse dal candidato al sindaco. Se vuoi il mio pensiero personale, vabbè, c'è il sindaco cefaludese, e secondo me il sindaco cefaludese che conosce già i problemi, che già ha detto quanti momenti ha dovuto vivere. Adesso gli farò qualche altra domanda, perché sicuramente la situazione è veramente difficilissima sotto qualunque punto di vista. Noi ci auguriamo che giovedì sera, ecco, certi steccati, certe situazioni vengono superate e si vada avanti con una situazione più serena da parte di tutti, perché tutti ne abbiamo bisogno. Del resto siete giovani, meno giovani, che si debbono andare ad assumere adesso determinate responsabilità, e questo è un aspetto fondamentale del prossimo percorso del sindaco La Punzina. Passiamo a Urbe, a Giovanni Upa. Giovanni, anche voi un sindaco che sicuramente con i suoi 721 voti, io l'ho intervistato, ha detto forse non è stato capito dalla professore, la devo correggere subito. Sì, subito. Continua nell'errore di onestà e tradizione. Scusami. Urbe, e non sostenevo il sindaco. Non so perché io ti accosto a onestà e tradizione. Non lo so. E allora ritorniamo a Urbe, Edoardo Croce. Mi hai bacchettato, grazie. No, assolutamente. Urbe Città Nuova, ripeto, un non seggio. Giovanni Uppa, e quindi Giovanni, la domanda che ti faccio è più specifica rispetto a quella che ho fatto a Patrizia. Vi siete riuniti tutti assieme? Tutti nove consiglieri e i vostri punti di riferimento politici? Noi non abbiamo riferimenti. Ecco, non abbiamo. Prego. E allora, come coalizione del sindaco Croci, chiamiamolo così per semplicità, per individuare i nove consiglieri in questo momento, abbiamo fatto una prima riunione, ma come si, per usare un'espressione inglese oramai parliamo tutti, work in progress, stiamo vedendo di poter trovare, come sono certo che troveremo, quella sintesi che ci ha uniti durante la campagna elettorale. Mi permetta un passaggio, l'hanno fatto i miei colleghi, come no, più o meno giovani, proprio sul risultato elettorale di Urbe. Urbe intanto non ha referenti politici, non è un partito, è un movimento politico che è nato molto prima delle elezioni del 2012 e ha inteso e intende non fermarsi alle elezioni del 2012, ma lavorare per il bene della città, dentro e fuori il palazzo di città. Mi piacerebbe sottolineare proprio il risultato numerico di Urbe a questa elezione, cioè 616 voti di lista, in una lista 7.8, ecco, mi sembra, che è una percentuale. Abbiamo superato di gran lunga partiti come l'UDC, come l'MPA, che non solo non lo hanno raggiunto il 5%, quindi questo ritengo che sia un grandissimo risultato per la città. E di questo ringrazio tutti gli elettori miei, ma anche quelli che hanno votato Lillo Serio, perché lo ricordo, io ne ho presi 228, secondo eletto in tutta la città, ma Lillo Serio ne ha presi 155 o qualcosa del genere, Fabio Coco ne ha presi 124 e ritengo che Raffaele Danne ne ha presi 70 a soli 24 anni, è prima uscita politica, quindi lo ritengo un risultato veramente soddisfacente, poi al di là del fatto di essere riuscito meno a portare più di un consigliere comunale al palazzo di città. E questa è, secondo me, in poche parole, è sostanzialmente la voglia della città di attuare il cambiamento. La città ha dato a dei giovani, che ne possa dire Mario Macaluso, chi non ha 25 anni, magari ne ha 32, come me comunque è un giovane, così è stato detto a Cefalù News, che al Consiglio Comunale non riescono ancora una volta ad approdare i giovani. Solo Marco La Rosa, che io salute, al quale sono legatissimo, non è una critica a Marco La Rosa, solo a 25 anni Marco La Rosa, gli altri non ci sono giovani nel Consiglio Comunale. Io ne ho 32, Nicolò Pizzillo ne ha 31. Penso che a 32 anni ci possiamo ritenere ancora giovani, poi non lo so, comunque, positivo, prescindere da questo. Mia e di Patrizio, voi ci considerate... No, il mio era un piccolo passaggio, una piccola parentesi su chi ritiene che non ci siano giovani al Consiglio Comunale. Fatta questa doverosa, ritengo, precisazione, dicevo, 616 voti sono veramente un risultato importante, il risultato della necessità che la città ha di attuare il cambiamento. Passo ad un altro punto, alla posizione nostra in Consiglio Comunale. Accolgo l'appello del sindaco e dei colleghi consiglieri, che Tony Franco e Nicolò Pizzillo, è necessaria una collaborazione, è necessario dare un movimento a questa, di muovere la città che è stata paralizzata nei 5 anni precedenti, e questo è fuori di dubbio. Io ritengo che si possa comunque dare slancio alla città, non necessariamente dando al sindaco i numeri proprio di maggioranza, ma io penso che anche sedendo fra i banchi dell'opposizione si possa in ogni caso dare slancio a questa città, si possa comunque collaborare col sindaco, perché la collaborazione al sindaco dai banchi dell'opposizione, dove io fino ad oggi penso di sedere e siederò certamente ai banchi dell'opposizione, io penso che possiamo collaborare col sindaco facendo proprio come il sistema democratico impone una opposizione cosciente e serena nell'interesse esclusivo della città e non pensando ogni volta che votiamo che se votiamo contro il sindaco, a favore del sindaco, facciamo vincere il sindaco o facciamo perdere il sindaco, facciamo vincere o facciamo perdere la città. Quindi se il sindaco, come dice Nicolò Pizzillo, porterà in consiglio comunale proposte alle quali non potremo dire no, noi no, non lo diremo. Non abbiamo la necessità per forza di, me lo consenta questo signor sindaco, come ha fatto nei 5 anni precedenti l'opposizione. Scusami, parliamo in modo concreto. Ciò significa che se giovedì sera il sindaco propone un nome, quasi dobbiamo fare intanto il presidente e il vicepresidente. Iniziamo del presidente e del vicepresidente. Capire, perché vedi tutto quello che mi state dicendo va benissimo. Allora, professore, come linea di pensiero, poi sì. Veramente complimenti a questi giovani, perché veramente abbiamo bisogno di questo tipo di rinnovamento di cui parlava Giovanni. Nicolò, io non la voglio mettere sul fatto numeri sì, numeri no, però giovedì sera il sindaco ritengo che proporrà un nominativo, non un argomento, non una linea da seguire. Quindi arrivato a un certo punto ci si deve esprimere, qualcheduno questi voti li deve dare. E prego. Allora, posso, come no? Appunto, vorrei intanto usare un'espressione a me cara, essendo un avvocato che fa penale, cioè sì. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere sull'argomento presidente e vicepresidente. Certo, ha facoltà, certo, certo è che la tradizione politica e le regole politiche della democrazia, questo me lo insegnano quelli più grandi di me, perché io lo comincio ad apprendere, vogliono che quando non ci sono numeri di maggioranza confortante il sindaco non li ha, la presidenza del consiglio, per ragioni proprio di apertura nei confronti di chi poi ti dovrebbe non sostenere o sostenere all'opposizione, dovrebbe essere concessa all'opposizione. Presidente, questa è una posizione. No, dico presidente, consigliere, questa è una posizione. Va bene. Se ne prende atto. Una logica. Se ne prende atto. Logica, una tradizione. Se ne prende atto. Se ne prende atto. Poi il sindaco, chiaramente, verrà le sue determinazioni. Se ne prende atto, ma questa già è una posizione ben precisa e ben determinata. E lì chiudo l'argomento. No, chiudiamolo perché ancora ci sono tre giorni. Perfetto. Tranne stasera, che forse. Io vorrei ora. Fatta analisi politica sui numeri, questa breve analisi politica sulla posizione che io, quale rappresentante di Urbe, avrò in consiglio comunale, lo ripeto, sui banchi dell'opposizione, ma con un'opposizione, spero, competente, per quelle che sono le mie modeste competenze lavorative che metterò a disposizione della città, sederemo all'opposizione. Ad oggi non ci sono le condizioni per appoggiare, proprio in maniera così il sindaco. Poi vorrei dire una cosa, voglio già dare al sindaco un altro impegno importante per la città. Sì. È una battaglia abbastanza delicata. Quando succedono fatti come quelli di Brindisi, io non posso non pensare alla necessità di una presenza sempre più forte dello Stato sul territorio. E quando si parla di presenza dello Stato sul territorio, non possiamo non parlare del fatto che il Tribunale di Cefalù sarà chiuso, e quando si chiude un tribunale, quando si chiude una piccola stazione dei carabinieri, come possibilmente succederà nei centri più piccoli, evidentemente lo Stato perde visibilità, perde posizione, per usare un termine sportivo, rugbistico, perde posizione sul campo e sul territorio. E allora io ritengo che questa nuova amministrazione debba prendere una posizione sul punto, se è il caso anche una posizione forte e decisa. Non lo può fare da solo, certamente avrà bisogno delle istituzioni, dell'avvocatura, delle quali io faccio parte essendo un avvocato, e certamente non è una battaglia questa che potrà essere affrontata su logiche politiche di maggioranza o opposizione, certamente è una battaglia che deve essere affrontata nelle logiche dell'interesse di Cefalù, della città e del territorio soprattutto. Quindi mi piacerebbe sapere, non pretendo una risposta immediata, ma certamente mi piacerebbe sapere cosa questa amministrazione, come si porrà la nuova amministrazione nei confronti del serio problema della chiusura del Tribunale di Cefalù e dell'ormai certa chiusura del giudice di pace di Cefalù. Ripeto, non lo inquadro solo un problema puramente dove portiamo gli impiegati del Tribunale di Cefalù, che potrebbe essere il problema minore, nel senso che possono andare a tempo. Pienamente d'accordo, Giovanni. Ma un problema di presenza sul territorio dello Stato, la chiusura di un Tribunale è perdere posizione da parte dello Stato sul territorio.

Sì, io prima di tutto ti dico che il sindaco non fa nessun nome per il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio Comunale, per cui non mi pare che sia questa la procedura. In ogni caso, io devo dirti con molta franchezza che l'ex sindaco Guercio, quando ha vinto l'elezione, aveva 13 consiglieri comunali. Da allora la legge è cambiata, non c'è più il voto di trascinamento, c'è il voto diretto al sindaco. Io non ho la maggioranza in consiglio comunale, ho 7 consiglieri comunali. È evidente che dialogherò con tutti e mi confronterò con tutti. Per me questo è il metodo del dialogo e del confronto. E da questo punto di vista vedo una gestione diversa rispetto al passato. I consiglieri comunali dovranno consigliare al sindaco di maggioranza, di opposizione, coloro i quali vorranno fare qualunque ruolo che assumono in consiglio comunale, dovranno consigliare al sindaco per questi 5 anni su quelle che sono le problematiche, le tematiche. Quelle, per esempio, che stamattina Giovanni, è una di quelle cose che io mi sto occupando da subito, perché dovrò mi sto rendendo conto che quello che è stato fatto è ben poco rispetto a questa problematica. Parlo della presenza del tribunale a Cefalù, anche l'accordo con gli altri comuni, cioè è stato fatto poco dalla precedente amministrazione, se non una riunione. Però è un problema grosso, un problema serio, perché noi non possiamo permetterci, oltre al giudice di pace, di perdere anche la presenza del tribunale, è un presidio importantissimo. Per cui io ringrazio Giovanni Juppa e insieme a lui lavorerò su questo, insieme a lui e ad altri che vorranno farlo, lavorerò per evitare che questo accada, cioè perdere il tribunale di Cefalù. Poi voglio comunicare a tutti che il sindaco, ancora prima che forma la giunta, già è al lavoro da parecchi giorni. Io anche come informazione ai cittadini tramite Cefalù Radio Monie voglio dire che ho avuto un incontro molto importante col sovrintendente beni culturali, cioè col dottor Gaetano Gullo e con i funzionari della sovrintendenza, appunto per risolvere alcune problematiche che riguardano il nostro territorio, sia su pareri che ancora non arrivano qui al Comune di Cefalù, che riguardano parecchie concessioni edilizie, sia anche per la programmazione del lungomare, dove c'è un albergo che deve essere al più presto completato, perché evidentemente solo la struttura così come è rimasta porta documento alla città. Io sono a tempo pieno e qui ho preso l'aspettativa al mio ufficio, per cui lavorerò tutti i giorni e da subito anche ho preso contatti con l'assessore al turismo, non soltanto per capire che cosa avremo per questa stagione, ma anche per andare a vedere a che punto è il progetto presentato alla vecchia amministrazione per il campo sportivo di Santa Barbara. Abbiamo avuto brevi mano da parte della dottoressa Antinoro, che ringrazio, una richiesta di chiariventi che penso in settimana andremo a consegnare allo stesso assessorato. Ho chiesto notizie per quanto riguarda le somme che devono ancora arrivare al Comune di Cefalù sullo Sherbet Festival dell'anno 2010. Il Comune ha anticipato 234.000 euro e deve averli, e ci servono questi 234.000 euro nella difficoltà liquida di cassa. E come anche ho chiesto notizie sulle somme che dobbiamo avere per l'anno 2011, sempre sullo Sherbet. Ho chiesto lavoratori in mobilità, 10 lavoratori in mobilità presto saranno a servizio del Comune Cefalù per 4 ore al giorno e aiuteranno a sistemare non soltanto gli uffici comunali, perché ci saranno degli operai della Telecom, ma anche a dare una mano ai cantonieri. E sto chiedendo tutti i lavoratori in cassa integrazione, sono i lavoratori del doppio binario. Abbiamo firmato già 4 convenzioni per i lavoratori, per giovani che hanno progetti di inclusione sociale, e per cui al più presto saranno al comune, una ragazza si occuperà del numero verde del comune e cercherà di dare una nuova immagine all'ufficio di relazione col pubblico, e altri si occuperanno di altre attività al comune che non anticipo, ma che saranno molto, molto importanti per tenere sempre vicino il cittadino all'ente locale, e per cui per aumentare questa potenzialità del front office. Poi è evidente che ci sono in cantiere tantissime altre cose, Io sto in questi giorni raccogliendo tantissimo volontariato. Io ringrazio tramite Cefalù Radio Madonie proprio i tantissimi cittadini che si sono messi a disposizione. Ho fatto una riunione operativa importantissima con l'Ato Ecologia Ambiente. Domani verrà pubblicato un bando di 12 operai, 11 a tempo determinato, 11 lavoratori che lavoreranno per quanto riguarda l'Ato Ecologia Ambiente, che prenderanno servizio, speriamo, il 1° giugno, e un autista. Abbiamo fatto l'accordo per quanto riguarda lo spazzamento, che non si faceva da molti anni a Cefalù, per cui zone come il Sant'Ambrogio non hanno mai visto qualcuno che spazzava per le strade, lo Spinito e tutta quella zona non si fa lo spazzamento da molto tempo. Ho chiesto una seconda spazzatrice più grande, penso la prossima settimana cominceremo il lavaggio dei cassonetti, come anche il lavaggio delle strade. Ci sarà una persona che si occuperà del centro storico, anello via Matteotti, corso Ruggero, via Vittorio Emanuele, via Bordonaro, il pomeriggio, cioè ci sarà una persona che raccoglierà i rifiuti, i piccoli rifiuti nel centro storico. Ci sarà il passaggio dei cestini del lungomare, del corso Ruggero, per quanto riguarda proprio la raccolta dei rifiuti che vengono messi in questi cestini che vanno subito cambiati. Queste sono delle cose orribili dove la gente purtroppo va a mettere anche i sacchetti di spazzatura, e a questo punto devo fare, tramite Cefalù Radio Madonie, ma farò una lettera a tutti i cittadini, un appello. L'appello è quello di tenere pulita la città, di evitare di buttare rifiuti fuori dall'orario. Sappiamo tutti che l'orario sono degli orari che verranno ricordati in questa lettera che arriverà ai cittadini, e di tenere pulita la città, perché Cefalù è di tutti ed è importante che la presentiamo nel migliore dei modi, per cui evitando di lasciare sacchetti fuori dall'orario a terra, perché evidentemente non sono gradevoli, evitare di utilizzare i contenitori per i piccoli rifiuti per sacchetti di spazzatura, e tutto questo può essere fatto. Ho fatto ripulire tutte le zone dove c'era una discarica a cielo aperto, per cui sto parlando di Sette Frati, sto parlando di Campella, di Ferla Alta. Lì ho chiesto con una lettera delle piazzole ecologiche, e cioè i contenitori di rifiuti, il lavoro lo farà l'Ato Ecologia Ambiente, i contenitori di rifiuti saranno inseriti in un recinto, in una piattaforma in cemento, in un recinto, e presto anche con un rampicante, per evitare che ci sia proprio questa presenza. Ma tutto questo non basta, bisogna potenziare, e sto cercando di farlo, il verde pubblico, perché l'importante è il verde pubblico. Ringrazio i privati che, come Angelo Arduino di Cefalù Radio Madonie, stanno portando avanti questa gestione delle piazzole, delle aiuole che hanno in gestione. Ricordo a quelli che hanno già, ho già l'elenco e li solleciterò personalmente, che hanno già affidate le aiuole, che il sindaco desidera anche dei fiori oltre che delle piante, per cui è ben importante mettere le fiori, e ho l'elenco delle aiuole che affideremo, per cui chi è interessato, lo dico tramite Cefalù Radio Madonie, si faccia sentire. Io chiunque è interessato ad avere ancora delle aiuole che sono, parlo per esempio quelle del Bibio Ferla, come parlo quelle di San Pasquale, può farsi sentire, perché Cefalù ha bisogno. Cercheremo uno sponsor per cambiare i giochi alla villa. Il comune non ha soldi. Se troviamo una società che vende giocattoli, che vuole farsi pubblicità a Cefalù, noi cambieremo i giochi alla villa. Ho raccomandato anche alla Ecologia Ambiente di pulire la villa come se fosse una stanza, e non perché lì ci sono dei bambini. Evidentemente c'è da dare un aspetto nuovo alla città immediatamente, perché siamo verso la stagione estiva, e per cui dicevo poco fa, potenziare il verde significa anche levare tutte le erbacce che ci sono in giro. I tre ragazzi che ringrazio stanno lavorando ogni mattina, hanno il sindaco alle calcagne, perché il sindaco li chiama già alle 7:30, però questo gruppo di giovani che si occupano che sono lavoratori socialmente utili e qualche contrattista che si occupa del verde sono troppo pochi, dobbiamo rafforzare questo gruppo. Ho già detto, gli uffici hanno già fatto partire la trattativa per la pulizia delle scarpate, per cui per una perizia, per evitare che noi altri ci presentiamo anche verso la stagione estiva con pericoli di incendio, non con le carte in regola. Questo e tantissimo altro. Ci siamo dovuti occupare anche della vicenda di uno povero sfortunato che da San Mauro è qui da parecchi giorni, un tale Eddie, che è un tunisino che è stato qui a Cefalù e che purtroppo, dico purtroppo, sporcava anche le panchine, luogo anche di sosta ai tantissimi anziani. Grazie all'avvocato Antonio Guercio, che ringrazio pubblicamente, ai servizi sociali e anche alla sensibilità della Procura della Repubblica di Terni Merese e del Tribunale di Cefalù, è stato l'avvocato Guercio è stato nominato tutore e proprio oggi si trova a Castelbuono, dove ha trovato una casa che proprio cercherà, perché il povero Eddie ha problemi seri, cercherà di badare a questo tunisino. E di questo e di tante altissime altre cose si sta occupando il sindaco, avendo come obiettivo principale quello del decor e rilancio della città. Abbiamo preso i contatti con il Club Med, abbiamo detto che la priorità per il comune di Cefalù è quella di avviare subito i lavori, facilitare tutta la procedura. Sono stati già consegnati, ma perché avviati dalla precedente amministrazione, lo dico, i lavori per quanto riguarda la rocca di Cefalù, per cui il costone della rocca dove c'è pericolo di massi, per cui siamo qui a meno di pochi metri. Ho detto alla ditta che i lavori devono partire subito, immediatamente, non ci devono essere interruzioni se non per qualche settimana nel periodo estivo, perché proprio la scorsa settimana ho ricevuto le lettere, ci sono anche cadute anche di pietre, dobbiamo mettere in sicurezza tutto questo costone. Sto facendo due convenzioni con i volontari, una con le Giubbe d'Italia per quanto riguarda la prevenzione incendio e altre due convenzioni sempre con gruppi di volontari per rafforzare il corpo di vigili urbani. Abbiamo pochissimi vigili urbani in giro. Io ieri sera ho fatto da sindaco e da vigile urbano, tornando con degli amici che ero a cena, ho visto passare nel corso motorini ad alta velocità. Questo non può più accadere, deve essere tolta questa abitudine. Si potrà scendere negli orari del Corso Ruggero, si potrà transitare qualsiasi luogo, ma con moderazione e con anche educazione. Tutto questo con la collaborazione delle forze dell'ordine, che hanno già in un primo incontro sia il signor capitano sia anche il commissario di polizia e il maresciallo della Guardia di Finanza mostrato sensibilità nei nostri confronti. Noi dobbiamo fare la nostra parte. La polizia urbana è la prima polizia di Cefalù, deve riacquistare credibilità, deve avere un ruolo che è un ruolo importante in questa città, non può essere lasciato ad altri, è il ruolo che dobbiamo assumere, con la carenza di vigili che purtroppo non possiamo potenziare perché non possiamo fare assunzioni. Siamo senza bilancio, concludo, per cui non possiamo fare quel tipo di assunzioni di vigili urbani stagionali che i comuni che hanno flussi turistici possono fare. Tutto questo in 10 giorni, lavorando dalla mattina alla sera, per cui io mi auguro che i consiglieri comunali, al di là della loro collocazione in consiglio comunale, vengano a darmi un aiuto e a consigliarmi, perché il modo nuovo di vedere come io voglio portare avanti il lavoro al comune di Cefalù è questo, cioè lavorare tutti insieme per il bene di Cefalù, facendo che cosa? Rilanciando questa città a partire dall'utilizzo dei beni. Non vado oltre perché sui beni già sto lavorando e sto cercando di porre in essere tutto quello che aveva deciso il Consiglio Comunale nel piano di valorizzazione dei beni, per cui cercare di portare a termine quello, ma aspetto la votazione, la delibera del nuovo piano di valorizzazione dei beni che adotterà il Consiglio Comunale, fermo restando che già abbiamo uno strumento che è la vecchia delibera. Grazie. Grazie Sindaco. E allora la parola ai consiglieri presenti in studio. Ecco, facciamo proprio l'ultimissima domanda, poi ci avviamo alla conclusione. Antonio Franco, quando eri seduto ai banchi dell'opposizione hai fatto tante proposte. Adesso ti chiedo, che priorità, in breve tempo ovviamente, perché avremo modo di riascoltarvi, il sindaco già ha dato la piena disponibilità proprio per far conoscere lo stato d'avanzamento delle sue azioni. Ti chiedo, che priorità darai nel momento in cui giovedì sera sarete operativi? E ti ringrazio per aver detto che dai banchi dell'opposizione abbiamo fatto delle proposte. perché malgrado la vulgata, la voce popolare, una certa superficialità e le elezioni, perché le elezioni sono finite e abbiamo vinto noi, e abbiano detto tante cose sull'opposizione che è stata fatta in questi anni, noi proprio durante la campagna elettorale abbiamo presentato un opuscolo nel quale abbiamo spiegato ai cittadini, e credo che i cittadini ci abbiano creduto, che noi abbiamo fatto 70 proposte costruttive durante i cinque ultimi anni di Consiglio Comunale. Sono state 70 proposte condivise dalla maggioranza del Consiglio Comunale, noi partivamo da 3 consiglieri comunali, o addirittura condivise all'unanimità. Proposte costruttive, determinanti, e che costituiscono anche la base per costruire nuove cose in questa città. Proprio a questo mi riferisco. In particolar modo credo che sia prioritario lavorare proprio per quel clima di collaborazione, di costruttività che si deve realizzare nella nostra città. Bisogna riprendere rendere operativo il regolamento per la consulta delle associazioni della nostra città. Renderlo operativo significa che la consulta si deve costituire, deve eleggere i propri rappresentanti, deve occupare fisicamente anche la sede della Corte delle Stelle che noi abbiamo indicato, e deve cominciare a fare proposte, deve mettersi al lavoro, perché noi crediamo molto in questo organismo che rende protagoniste le molte vitalità che ci sono nella nostra città, le associazioni che possono sicuramente dare una mano per una buona e sana amministrazione della nostra città, un buon governo della nostra città, e, fermo restando la libertà di opinioni e di pensiero. La seconda cosa che credo sia fondamentale da assumere proprio per quel sistema del decoro e della vivibilità che la nostra città deve avere, credo che sia necessario riprendere un regolamento che abbiamo lasciato purtroppo inevaso, tra l'altro nella commissione della quale io facevo parte, che è il regolamento per l'occupazione del suolo pubblico. Credo che sia importante che la città si doti di questo fondamentale strumento, che è uno strumento anche di equità. Il regolamento per l'occupazione del suolo pubblico credo che sia anche importante per dare uno strumento all'amministrazione efficace per regolamentare, dare ordine a quelle che sono le questioni più visibili e anche la gestione degli spazi della nostra città ad uso commerciale. In terzo luogo, e concludo, credo che sia importante e fondamentale che vengano messi a reddito i monumenti della nostra città, cioè riuscire a dare un taglio culturale al nostro turismo significa operare anche con semplicità perché il circuito dei nostri monumenti venga fruito dai turisti che nella prossima